periferia fa molto caldo. Mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderei per un bugiardo. Mi sembrava amore ma era altro. Beve champagne, sotto Ramadan. Alla TV, danno Jackie Chan. Fumano a mille, mi chiede come va. Chiede come va, come va, come va. Sanità, come va, come va, come va. Chiede come va, come va, come va. Sanità, come va, come va, come va. Tornare con i dritti.